Giuseppe Radio 24 che trasmette la passione. Ogni sozzo 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. La maledizione inizia con quattro parole: Gort, Klaatu, Barada, Nikto. No, verrà rotta, verrà rotta la maledizione. Per la Guzman potrebbe farcela. No, dicono tutto. L'anno scorso il Benfica ha perso tutto all'ultimo minuto, campionato, Coppa e Europa League. Quest'anno vince tutto, fa il quadruplet. Vediamo, domani ne parliamo, eh. Tanto questa è registrata, domani ne parliamo, ci sono le prove. La maledizione cesserà con una parola, adunda. Gameiro invece può dare l'estasi al suo popolo. Parte Gameiro e il Siviglia vince l'Europa League, la vince ai calci di rigore, la vince senza sbagliarne nemmeno uno, la vince forse grazie a Bera Gutman che da qualche parte lassù ripenserà a quella frase che per l'ottava volta è diventata realtà. È l'ottava finale consecutiva che perde il Benfica. È la terza Europa League, Coppa UEFA, che vince il Siviglia in altrettante finali. Beh, bravo Franco Piantaneda, autore di questo programma, ha davvero indovinato tutto. Vincerà il Benfica, bravo. Claudia Schiattone non si è pronunciata, Roberto Scaltritti in regia mi pare neanche, se ne è guardato bene. Io forse ho indovinato, eh? Non ho detto niente? No, l'avevo detto. Buongiorno a tutti, 800 24 00 24, numero verde. Non è vero, ma io ci credo, e come, specie se si parla di calcio, alla scaramanzia ovviamente. E ieri sera, questo è il vero tema, quello degli allenatori che erano di contorno a questa sfida. C'erano più allenatori che tifosi allo Juventus Stadium a rendere onore a Bela Gutman, cioè l'allenatore più vincente di sempre. 8 controfinali consecutive perse dal Benfica. 100 anni di anatema, ne mancano forza Benfica, ne mancano solo 48. Pierluigi Pardo, ci sei? Sono, ci sono, come va? Benissimo, e tu? Sono in treno, quindi parlo a bassa voce, però... Hai paura di disturbare? Ma coinvolgi tutti? Apriamo un dibattitone clamoroso. La ragazza mangia un'insalata straordinaria, era salutista, un fisico pazzesco. Poi qui sì. Sono musica, e cioè, insomma, è la società moderna, sì. La società moderna e tecnologica che intanto deve fare i conti con qualcosa di impossibile, perché 8 finali consecutive, vabbè, ma neanche se fai apposta, una per sbaglio la devi vincere. No, ma io approfitto per ricordare appunto che ci lega con Bela Gutman una grande stima, e perché non si sa mai, no, nella vita, e quindi vogliamo approfittare, anche l'ho fatto già via Twitter, approfitto per ribadire la mia assoluta stima nei confronti di Bela Gutman. Sì, anche la mia, per carità. Anche la tua, sì, Bela Gutman, insomma, purtroppo tecnicamente non lo possiamo invitare per ovvi motivi a tutti i convocati, ma lo vorremmo sentire perché è un allenatore eccezionale e gli vogliamo bene dell'anima, ecco, quindi sì. Questo per cominciare. Il nostro allenatore preferito ogni epoca. Assolutamente. Sì, assolutamente sì. Non esageriamo, sennò poi ci... Vabbè, comunque sì, no, certo. No, ma tu sai, dal 62, dopo la seconda Champions, seconda Coppa dei Campioni consecutiva, chiese l'aumento, la storia è questa, gli dissero no, non è il caso. E lui, va bene, allora vado via. Pa, anatema, 100 anni. Al Sassuolo, dove hanno capito tutto, che cosa hanno fatto, Pardo? Hanno pagato anche a Malesani il premio della salvezza. 5 partite, 5 sconfitte, però premio salvezza tieni, si sa mai. Insomma, non c'è un premio salvezza per tutti quelli che si occupano di sport a Radio 24, perché voglio dire, no? Stessa famiglia, controlla, chiedi, magari c'è un premio salvezza pure per anche anche simbolico, anche non so, sotto forma di sì, generi alimentari, alimentari, prosciutti, sì, cose sì, indiane, ora mi informo, ora mi informo se c'è un premio salvezza anche per noi. Però il punto è che comunque ieri sera Conte accanto a Ferguson, Prandelli e Montella e Spalletti e tutti gli altri in fila per tre col resto di due, e la domanda è: ma Ferguson ha fatto l'esame d'inglese a Conte? The pen is on the table. The cat is under the table. What is the table? Vabbè, ne parliamo subito dopo il traffico. Aspettiamo un ospite. Perché, allora, il punto è: Conte resta o no? Ho già parlato di nuovo Marotta, dicendo la settimana prossima decidiamo, però la priorità è trattenere Conte, un patrimonio della società. Queste le ultime parole famose di Marotta questa mattina. Strade. Tre finali e tre vittorie per il Siviglia. Ottava finale consecutiva persa dal Benfica. La maledizione di Bela Gutman continua. La festa è spagnola. Ha vinto il Siviglia. Tutti convocati. Interno è assolutamente serena. Sulla vicenda Conte sono state scritte e dette tante cose anche da me nelle settimane precedenti. Abbiamo quest'ultima settimana che, come abbiamo detto, suggellerà quello che è appunto un raggiungimento di un straordinario traguardo, quindi ci prepariamo per questa festa. Finita la partita, la stagione ufficialmente chiuderà i battenti, dopodiché nella settimana prossima parleremo del futuro, comprendendo anche la questione allenatore. Pardo, questa è Marotta, naturalmente stai facendo proseliti per quanto riguarda i complimenti per la telecronaca di ieri sera. C'è chi propone addirittura un auto blu per te, per la tua prestazione di ieri sera, migliore in campo nettamente, anche perché era contro una partita pallosina, la partita di ieri sera. Beh, primo tempo soprattutto è stata brutta, però ti dico la verità, è una finale, tra l'altro gli ascolti sono stati eccezionali, perché ho fatto 3 milioni e mezzo, che è un... per Italia 1 è il 13,5%, è un grande risultato, al 24% sui rigori, che è abbastanza logica perché comunque i rigori se li vedono tutti, questo è ovvio. Sì. Però veramente grande ascolto e devo dire grandi immagini, grande pubblico, il migliore secondo me è stato il pubblico. Alla fine tanti discorsi sono astratti, no? Tu pensi è comunque una coppa di Serie B rispetto alla Champions, sono due squadre che non scaldano più di tanto, poi le metti in campo, la partita non è un granché, ma tutto il l'atmosfera la rende eccezionale, almeno per me è così. E sì. Poi la bellezza del calcio, vabbè, sempre una finale, sempre una finale di coppa. Speriamo che il telefono regga, perché comincio a sentire preoccupanti buchi da quel treno per Yuma. Comunque ieri a proposito di questo, all'inizio del secondo tempo, nell'integrazione che abbiamo dato delle immagini nazionali, si è vista una scena molto indicativa. Conte e Andrea Agnelli a colloquio per tanti minuti, per 10 minuti mi dicono. Poi chiediamo lumi? Chiediamo lumi, sì. Max Nerozzi della Stampa. Ciao Max. Ciao. Prima volevo chiedere lumi io, se l'auto blu era con Cucinotto. Era con Cucinotto, cioè è un camper, in realtà è un camper blu. Ok, va bene. Beh, questo col è spontaneo. Come, col cuoco dentro? No, è cuoco no, aspetta, non te lo danno, ci vuole la prossima telecronaca, vediamo. La prossima telecronaca ti giochi il cuoco dentro il camper blu. Allora Massimiliano, Conte e Agnelli a colloquio ieri sera in maniera molto serena, non c'è stata nessuna fumata, né blu, né grigia, né verde, né gialla. Conte si è seduto accanto a Ferguson e l'ho visto decisamente in difficoltà, molto più in difficoltà che non in panchina, nel colloquiare con il santone britannico. Sì, è vero, però penso che Parvo ti possa essere buon testimone, perché Ferguson lo conosce bene, che l'inglese di Ferguson non so, mi ricorda un po' quello, non so, di Tolkien, del Signore degli Anelli, nel senso che è tra lo scozzese e Nibelungo, quindi well, you didn't have to say this. I had straight to speak this way and everything is all right. I just lose my job, you know, qualcosa di simile. Ecco, vedi. No, guarda, Su, sì. Con occhio con Agnelli ti dico, vado un po' controcorrente, nel senso che c'è stata anche un'istantanea in cui c'era anche John Elkann, che è presidente Fiat e di Exor, cioè il maggiore azionista di Juventus. Ti dirò, insomma, mi sarei sorpreso se Conte, Agnelli o Elkann, se Conte non fosse andato a parlare con Agnelli o non l'avesse salutato. Sarebbe stata molto più notizia. Dopodiché parlano, sempre parlato in questi giorni, e tutti gli indizi che abbiamo raccolto, come tutti i giornali e TV, sono di due entità lontane, Conte e la società. Devo dire però che la logica, che un giornalista forse non dovrebbe mai seguire, dice però che il matrimonio è ancora possibile, se non altro per il contratto, perché al momento la Juve non ha alcuna idea di licenziare Conte, sì. E Conte non ha mai pensato di dare dimissioni. Mi chiedo io come si arriva a una separazione se nessuno dei due molla la carta. Il problema, come sappiamo, è quello di potrebbe essere quello di rimanere insieme controvoglia, ma supportati soltanto in forza di un contratto. Insomma, sarebbe una sorta di separazione in casa, no? Con tutto ciò che ne potrebbe derivare, perché è chiaro che in queste condizioni al limite è ordinaria amministrazione, non puoi costruire nulla. Su quel colloquio tra Conte e Ferguson ha parlato Marotta? Sì. Ieri era un clima di festa, una finale di una competizione importante, quella Europa League, è sempre motivo di incontro con altri protagonisti delle icone come Alan Ferguson, e quindi è giusto che Conte possa da lui magari carpire dei consigli per quanto riguarda il suo futuro da allenatore. Sì, da Alan Ferguson sicuramente avrà tratto degli auspici o dei consigli, da Alan Ferguson, ma no, c'è un ascoltatore che scrive Alan Ferguson, magari la Juve, il Manchester United sta trattando Paolo Conte. No, ma senti Pierluigi, cosa ne pensi tu di quanto ha detto Massimiliano? C'è questo rischio di una separazione in casa, di un accordo per forza di cose? Il rischio, però, come dice giustamente Max, insomma, non, è tutt'altro che scontato, perché poi alla fine non c'è al momento attuale, secondo me, un'offerta clamorosa per Conte, perlomeno non siamo certi che ci sia. Ci potrebbe essere l'offerta del Monaco, che aveva ovviamente Giorgio Jesus nel mirino. Ha preso Jardin il Monaco. Ah, perfetto, benissimo, vedi che si è pensato di me. Quindi questa cosa qui è già passata. Il resto, insomma, potrebbe anche non esserci paradossalmente un'offerta per Conte. No, sulle immagini di ieri, adesso io non voglio fare il venditore di un prodotto medio sempre esclusivo, eccetera, con la telecamera nostra, però è vero che la notizia sarebbe stata se si fossero ignorati, però io ho visto quelle immagini, dello specifico Marco Foroni, che era al coordinamento, che chiaramente non ha visto solo i 3 secondi che abbiamo mandato in diretta, ma ha visto i 10 minuti, ha colto comunque, questo credo che sia una notizia, un livello di serenità, di familiarità, di vicinanza dal punto di vista umano, che qualcuno in queste ultime ore non dava più per scontato. Quindi poi è ovvio che noi possiamo essere amici, volerci bene, ma decidere che le nostre certo, si separano, però certo. Quei minuti di conversazione ieri sicuramente dimostrano che c'è un clima amichevole e costruttivo. Senti, chiaramente insomma decideranno, però i rapporti non sono tesi, se dobbiamo giudicare quelle immagini. Max, ma onestamente all'interno della società Juventus c'è qualcuno che non vorrebbe più Conte? C'è qualcuno che considera questo ciclo finito? Perché la mia sensazione è che tutto sia già deciso. Io sono ragionevolmente certo, poi naturalmente mi sbaglierò, sono ragionevolmente certo del fatto che Conte andrà via. Dove non si sa, e questo è uno dei punti da contendere, perché non ha offerte reali e credibili ad altissimo livello. Ma la Juventus non vuole farsi trovare in braghe di tela. No, è vero, questo è un altro problema, un altro grosso problema per la Juve. No, apro parentesi, non è ufficiale Jardin, te lo dicevo perché penso che firmerà per il Monaco, ma la cosa in chiave Conte è che Jardin è un portoghese, guarda caso, Mendes è un potente procuratore portoghese che agisce su Monaco, e all'allenatore del Monaco è stato detto tu vieni ma il mercato lo facciamo noi. E quindi questo è un altro motivo per il quale secondo me Conte o non sarebbe andato a Monaco o si sarebbe trovato molto molto male, chiusa parentesi, sì. Per dire che non so quante società in Europa adesso sono meglio della Juve, forse 5 o 6 o 7 per motivi di bilancio, certo. Altre secondo me no. No, per venire alla tua domanda, Sai, Conte dice che i cicli durano 3 anni, potrebbe essere vero anche per gli allenatori. Di certo sono andati d'accordo, vanno d'accordo, umanamente il rapporto è ottimo, ma Conte l'ha sempre detto, l'ha sempre detto anche Agnelli, però in 3 anni ci sono anche delle scorie e Conte un po' le ha tirate fuori. Io ne dico una a caso dal punto di vista della società. Conte è stato bravissimo, però secondo me non si è mai sottolineato abbastanza quando lui è finito dentro il ciclone dell'inchiesta, dove la Juventus non c'entrava assolutamente nulla, nulla, eppure Agnelli fece le conferenze stampa mettendosi il suo faccione a Vinovo, ricorderete tutti, e quello secondo me fu un sostegno assolutamente non era dovuto, e la Juve l'ha tenuto giustamente in tribuna e quindi ha dato grande sostegno, io penso. E forse anche questo dovrebbe essere messo sulla bilancia di quando vai a trattare il tuo futuro con la società. Dopodiché queste cose che penso io, immagino che le pensino anche dentro Galileo Ferraris, per venire alla tua domanda. E quindi sai, se nessuno dei due fa un passo, io la vedo dura. Cioè, sai anch'io della tua opinione, cioè Conte va via, però poi mi trovo anche a quel pezzo di carta davanti a 3 milioni di euro più i premi che ballano. E non so se Conte lunedì o martedì dirà: ragazzi, io non me la sento più, non voglio più allenare qui, do le dimissioni, tanti saluti. Non lo so, io al momento dico di no. Come dico di no che la Juve non tratterebbe una buona uscita, perché non ne vede i motivi. No, ma comunque questo è molto interessante, anche perché Conte è davvero la pedina centrale del domino, e poi ovviamente si aprono le possibilità più fantasiose, come scrivono anche i nostri ascoltatori, che tra poco sentirò anche parlare, 800240024, c'è chi scrive: Giorgio da Bologna, Conte al Bayern, Guardiola alla Juventus, oppure la telefonata tra Berlusconi e Conte. Io da milanista non lo sopporterei, scrive Roberto da Venezia. È chiaro che poi si possono aprire tutte queste piste, ma per la Juventus realisticamente un dopo Conte chi potrebbe essere? Cioè, mettiamo, domani danno l'annuncio, festa finita, chi arriva? Guarda, al momento la Juve non ha un nome da annunciare. Secondo me questo è il punto. E questo è il punto del ritardo. Ma io ti dico, non per autocitarci, ma l'altro giorno riportavamo quel che la Juve va dicendo ai procuratori, che purtroppo per la Juve è vero, e loro hanno parlato con il procuratore di Drogba, ci poteva essere anche un accordo con quelli di Nani. Alla fine delle discussioni è stato detto ai procuratori: signori, ci rivediamo, perché al momento non sappiamo chi sarà l'allenatore. Non è un guaio da poco a maggio. No, certamente. Si rischia un clamoroso vuoto di potere sulla panchina dei tricampioni d'Italia. Certamente. Dopodiché, se rimaniamo i fatti, ribadisco che la prima scelta era Klopp, con cui si è stato avviato un discorso, ma un mese fa, quando c'erano i primi sentori. Ma Klopp ha detto che ha contratto con Borussia Dortmund fino al 2017 e non se ne va. B, realisticamente la Juve dice: se Klopp va via dal Borussia, ci sono altre squadre che forse hanno più a dir di noi in questo momento. E dopodiché ci sono i nomi che dicevi tu prima. Spalletti, a me è stato detto che è un profilo che piace, ma che un po' costa, perché ha il contratto in essere con Zenit, e B, ha dei collaboratori abbastanza numerosi da portarsi dietro, e qui la Juve è stata molto rigida anche con Conte, se ricordi. Come no? Per esempio il preparatore, insomma, e questo non so se potrebbe essere un ostacolo. Il nome di Mihajlovic non era buttato lì, perché come profilo caratteriale piaceva, però da ieri a Genova dicevano che oggi forse avrebbe firmato il rinnovo con la Samp, quindi sai, poi si aspetti anche il paniere dove puoi pescare, non è che stanno tutti a aspettare te. No, certo. Grazie Max, buon lavoro. Grazie a voi, grazie buon pomeriggio. Massimiliano Merozzi. Subito dopo la borsa cominciamo io e Pierluigi Pardo, che nel frattempo riagganceremo, cominceremo a parlare con gli ascoltatori. 800240024, numero verde. Quando ti siedi in un ristorante dove si pagano 100 euro, non puoi pensare di mangiare con 10 euro, chiaro. Tutti convocati. Luciano? Sì, buonasera. Ah, Luciano Moggi. Ciao, buonasera. Luciano, come stai? Come stai, Luciano? Ma stiamo bene. Dimmi, che c'è? No, io innanzitutto saluto il signor Baudo, e che non abbia niente di meglio da fare che parlare in trasmissioni varie di me. Ma no, in questa trasmissione, aspetta, scusa Luciano. No, non è io. Scusi Giuseppe, no. Sì, sì, dimmi, non è da signori quale lui vuole apparire. E poi io non sono stato condannato per corruzione, non ho corrotto mai Luciano, io non parlo sempre di te, innanzitutto perché siamo amici e non ho accuse personali da muoverti e rimproveri. No, io voglio dire, non è che io volessi accusare Moggi, io volevo dire fatto bene. I due scudetti da Juve li ha persi comunque ed è stata la regione in Serie B. Ma anche questa è una storia sbagliata. Gli studenti della Juventus sono 32 e finiamola con questa storia, lasciamo perdere. Andiamo a parare. Gli studenti 20 sul campo sono 32. Allora, direttamente dalla Zanzara, Pippo Baudo era Pippo Baudo, Luciano Moggi non era Luciano Moggi, ma lo straordinario Andro Mercù. Questo invece è il rumore del telefono di Pardo che è caduto. 800240024, numero verde, volevo dire un altro paio di cose, ma adesso lo farò, sulla telecronaca di ieri sera, e un altro dettaglio che mi ha colpito molto, un dettaglio di grande tenerezza. Ma intanto ascoltatori, 800240024, numero verde, e poi voglio parlare anche, lo farò soprattutto nella seconda ora, di questa notizia comparsa oggi con grandissimo risalto di un possibile ritorno sulla stampa e su Corriere della Sera, con grandissimo risalto un possibile ritorno di Carlo Ancelotti sulla panchina del Milan. Che ne dite? Rosolino da Pavia, Massimo da Urbino. Rosolino, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie per la convocazione, complimenti. Grazie. Volevo dire, cerco di essere breve. Innanzitutto, parlando di Cesari o Cesari, come non riusciva a capire mai Sivori dove cadesse l'accento, Omar Sivori, sì. Che ora fa tanto il fighetto sui commenti, eccetera, mi ricordo un particolare, una puntata di Pressing con Raimondo Vianello alla conduzione, sì. Dove l'arbitro Cesari era chiamato in causa per un fallo di mano in area, cioè un difensore che saltava, alzava il braccio e buttava via il pallone con la mano, e Sivori diceva, ma qui non stiamo giocando a pallavolo. Inquadrata la faccia di Raimondo Vianello, dice, ma siamo alle solite. Sì, sì, ho capito, ma questo non poteva non vederlo. Chiusa parentesi. Secondo, ieri sera, sempre parlando di arbitri o di ex arbitri, sui due rigori parati il portiere si è mosso abbondantemente prima, perciò non so, dite qualcosa. Lo ha detto ieri sera anche Pardo in telecronaca. No, io l'ho sentito in telecronaca. Lui era allo stadio, facciamolo dire a lui. Il rilievo è corretto, l'obiezione è accolta, no Pierluigi, ci sei? Sì, l'obiezione è accolta. Devo dire che Cesari mi fa... Fa ridere, Cesari fa ridere. O Sivori. Sì, l'obiezione è accolta, assolutamente, pienamente promossa. Tra l'altro, no, sulla telecronaca c'è chi sottolinea come ieri addirittura dato la distanza numerica in chilometri tra le due città. Io posso testimoniare, si è andato a misurarla personalmente utilizzando il famoso metro di Noviola. Era banalmente scritta sul press kit del web, 10 km. Mi rovini così. No, c'erano un po' di cose sfiziose, controllato c'erano, però 310 km era proprio sul press kit, cioè sulla cartella stampa del web, quindi era facilissimo. Invece dimmi di quel momento di grande tenerezza, di quel bacio tra Rakitic e Carrizzo. Sì, grande tenerezza è un bacio in bocca, ecco, adesso. Saremo perdonati un giorno all'altro da un bacio sulla bocca, allo stadio. C'era un precedente nel 2005 nella scala del Liverpool, e mi pare insomma si sia ripetuto, però devo dire la scena l'ho vista, anche perché appunto ho fatto un salto al pullman regia a fine partita ed erano tutti abbastanza colpiti da questa immagine, perché proprio un bacio, cioè non è che proprio sono dati un bacio in bocca come due fidanzati, però chiaramente non me ne frega niente, non ci sarebbe niente di male, vorrei essere chiaro. Pietrelli sostiene che c'era della passione, vabbè, ma comunque per l'appunto saranno fatti loro. Dai, parliamo di allenatori, 800240024 o di quel che volete, di quel che vi pare. Massimo da Urbino, buongiorno. No, di Urbino. romano di nascita. Benissimo. Volevo chiedere a Pierluigi Pardo, io la partita l'ho vista, l'ammetto, sulla concorrenza, quindi non so se l'ha detto in telecronaca, ma a livello tecnico a me sembra che il portiere del Siviglia abbia, i rigori fossero tutti irregolari, perché comunque si è mosso in avanti in maniera propositata. Sì. Secondo me erano sentiti da ripetere, ma no, l'abbiamo appena detto, Massimo, l'abbiamo appena detto, e mi sembra acclarato, cioè mi sembra cronaca. C'è anche da dire che la rincorsa di Cardoso è una cosa allucinante, cioè sembra, mi ricorda quando ero bambino, a un certo punto non volevo andare più, stavo lì per tuffarmi, non volevo, c'avevo paura di tuffarmi. Che alla fine devi andare nella vita, forse sì. Che si interrompe tre volte, nel frattempo sicuramente il portiere si sposta dalla linea di porta e quindi a restringere lo spazio. Uh-huh. Quindi il rigore andava tecnicamente ripetuto, però andava ripetuto anche per colpa del tiratore, quel rigore lì. Certo. Io ti ho trovato un cuoco nel frattempo per il camper blu, si chiama Plinio e ha detto che fa il cuoco e per te si mette a disposizione, vedi tu come sei, sì, come sei popolare. Ma dimmi, questa cosa di... aspetta un attimo, includiamo nella discussione, ovviamente con grande piacere, Franco Ordine dal giornale. Ciao Franco. Eccomi qua, buon pomeriggio. Allora... Ah, come sto? Io benissimo, tu? Bravo, io pure. No, sì. No, tu sei completamente fuori, ma non nel senso del balcone o del terrazzo come solitamente si dice, ma sei proprio fuori dallo Stato, cioè sei proprio all'estero, vai avanti. No, è nei patri confini, posso non confermare. In treno, meno male che non sei nelle patrie galere. che limitazione, speriamo che continui questo status. No, ma volevo dire che fare limitazione di ordini in treno a bassa voce è difficile. Sì, posso capire. Io volevo far sentire invece una cosa prima di parlare di nazionale, di Milan, del certo ritorno di Carlo Ancelotti sulla panchina rossonera, o no, Franco? Ma è una voce, una possibilità. No, è una delle possibilità a cui in questo momento stanno pensando Berlusconi e Galliani come risposta al diciamo per il dopo Seedorf. Prendono praticamente esattamente il contrario di Seedorf, sì. Il profilo contrario, cioè uno che si fa amare dallo spogliatoio, che è pieno di esperienza, e quindi e che gioca con, diciamo tra virgolette, il modulo che piace al presidente. Mi sembra una pista difficilissima, vista così mi sembra una pista clamorosamente difficile, però è una voce oggi ripresa con grande insistenza, ovviamente molto dipenderà. Ma le cose difficili sono quelle che risultano più soddisfacenti alla fine. Ah, questo è certo, cioè, io penso che nessun milanista al mondo sarebbe contrario. Da vedere che ne pensa Ancelotti, perché comunque è quello. E secondo me c'entra anche la decima, c'entra anche la finale Champions League. Sì, secondo me c'entrano anche 7 milioni di motivi che il Real può soddisfare e il Milan in questo momento non credo. Vi state concentrando su aspetti secondari. Tu dici, adesso me la spieghi, subito dopo il traffico mi spieghi questi, perché sono aspetti secondari questi. Sono rimasto sicuramente sorpreso di questa situazione, adesso credo che magari si risolva come l'anno scorso in poco tempo e trovino una soluzione, perché fino adesso sicuramente ha rappresentato una formula per quanto riguarda il campionato italiano vincente. Tutti convocati. Ragazzi, ma questo è un annuncio importante, ma volete lasciar fallire il Bari? Oh, io adoro le barese, adoro le donne di Bari, le pugliesi, mi piace mangiare lì. Che cazzo volete fare? Lo volete far fallire? Guardate che io arrivo, voi mi conoscete, e se lo fate fallire, io arrivo e vi inculo, ok? Marai tanti appelli per salvare il Bari, anche quello di un famoso attore, Rocco Siffredi. La Puglia ti imbroglia, ti imbruglia più di nata. Franco Ordine, a te Barese un commento, oppure un altro appello. Foggiano. Quanto ti potrei anche querelare perché Foggiano, hai ragione, scusa, perdonami, è Pardo che mi confonde. Invece in questa circostanza penso che noi si debba come dire, andare a scuola dai baresi, perché c'è in questo, su questo argomento, su questa materia, e cioè il salvataggio della squadra, c'è un coinvolgimento complessivo della pugliesità e della baresità che è molto struggente ed è molto anche didascalico per tutti gli altri. Però sì, ci sarà anche coinvolgimento, ma c'è una lira, 2 milioni di euro sono per questo mondo, sono bruscolini e non saltano fuori. No, ma il problema non è che non c'è una lira, il problema è che non vogliono mettersi in campo in prima linea coloro i quali avrebbero la possibilità non soltanto dei due ma anche degli altri milioni. Il problema vero, purtroppo, è invece il resto, e cioè il fatto che siano stati un po' presi in giro da questa famosa cordata inesistente degli indiani dei quali parlava Paparesta. Sì. Beh, torniamo un attimo al Milan, ragazzi. Pierluigi Pardo e Franco Ordine, spiegatemi questa cosa delle questioni secondarie. C'è un ascoltatore che scrive: ma uno che allena, Ancelotti, allena Cristiano Ronaldo, Bale, piglia 7 milioni l'anno, viene al Milan dove non hanno euro, ma molta malafede, due amministratori delegati e un non presidente. No, allora, se posso... toccata piano. Toccata pianissimo, sì. Sì, sì, se posso anticipare come la vedo io. Io la vedo invece così. Primo, vediamo come finisce la stagione per la decima. Sì. Secondo, Carlo Ancelotti non è mai stato amato e non è mai stato, tra virgolette, coccolato dal suo presidente Florentino Perez. Terzo, non essendo stato mai amato nemmeno in maniera vistosa dal popolo madridista, nel caso in cui dovesse fallire anche l'assalto alla decima, credo che per lui si preparerebbe una stagione molto difficile e complicata. Di qui allora, secondo me, il fatto che non è sicuro, naturalmente, qua stiamo parlando solo e soltanto di una suggestione, che possa essere convinto dall'affetto, dalla nostalgia canaglia, dal fatto che poi tra un po' convolerà a giuste nozze con la sua attuale compagna, tornare, diciamo, dalle parti di casa sua, dove lo accoglierebbero sul lustrino bianco. Ma chiaro, come un imperatore, ma dicevo prima, esatto. Non c'è milanista al mondo che non farebbe le capriole in questa prospettiva. Tu come la vedi, Pierluigi? Io la vedo complicatissima, perché comunque i parametri tecnici tra Real Madrid e Milan adesso sono veramente troppo distanti, però è una suggestione questa che ci sta. Carlo, credo che soprattutto se dovesse vincere la Champions League, che tra l'altro per il Real sarebbe una come tutte le altre, ma sarebbe la decima, quella che aspettano da ormai da più di 10 anni e che viene vista, è stata vista come un'ossessione. Beh, insomma, se dovesse vincere la Champions League potrebbe anche essere intrigato dall'idea di un'esperienza diversa. Sì. E poi, ripeto, secondo me la distanza è tanta, perché noi siamo tutti bravi a fare i romantici al posto degli altri, però insomma ci sono tutta una serie di elementi, diciamo, tecnici, di semplicità, di bellezza, di guadagno, che sono tutti dalla del Madrid. Ma sono tutti da parte del Real Madrid, e poi bisogna vedere, appunto, molto dipenderà dall'esito della decima. Pier, faccio davvero fatica a sentirti, ma oggi ovviamente ampiamente giustificato, in treno, in viaggio verso Roma, verso la città eterna. Buon viaggio, ci sentiamo domani. Domani ci rifacciamo, grazie. Ciao Pierluigi Pardo. Franco Ordine, invece, ancora una battuta. Mi sembra che ci possa tracciare un parallelo tra la Juventus e il Milan. La Juventus oggi è in un momento simile, forse quello del Milan dopo i 3 anni di Sacchi, e le servirebbe un capello. Sì, io penso di sì, nel senso che invece secondo me un po' di differenze ci sono. Semmai il paragone più pertinente è quello col periodo di Capello, quando Don Fabio mise insieme 4 scudetti in 5 anni. Lì però si era consumata, diciamo, tutta la generazione degli invincibili, e quindi si preparava un difficoltoso, complicato cambio di generazione. generazione. Qui nel caso della Juventus la situazione è un po' diversa, perché qui Conte in sostanza, avendo anche lui l'ossessione della Champions da vincere, sostiene che la Juventus attuale, così com'è, ma anche con qualche ritocchino, non è in grado di partecipare alla finale della prossima finale di Champions. Qui la sua richiesta o di un ingente piano di rafforzamento oppure di cambiare aria. L'unico interrogativo, l'unico quesito che secondo me pesa moltissimo su questo negoziato che si appresta a diventare anche polemico, è il fatto che lui non ha in questo momento nessuno che bussi alla sua porta. Certo, così. Beh, si potrebbe immaginare un bello scambio Ancelotti al Milan e Conte al Real Madrid, ma se andiamo avanti così arriva la buon costume e ci arresta. Se posso aggiungere, se nel caso in cui dovesse maturare davvero la separazione consensuale Ancelotti-Real Madrid, se conosco appena Florentino Perez, secondo me il prossimo allenatore si chiama Zinedine Zidane. Anche questa è bellissima. Grazie Franco Ordine, ti abbraccio. Ciao, ciao. Abbiamo l'appuntamento con le scommesse, ci sentiamo dopo il GR. Quote e pronostici. Scatta oggi la sesta tappa di questa edizione del Giro d'Italia, la più lunga della Corsa Rosa da Sassano a Monte Cassino, 257 km con arrivo in salita all'abbazia benedettina, 70 anni dopo il bombardamento della Seconda Guerra Mondiale, tappa adatta a colpi di scena e anche a fughe da lontano. E allora vediamo le quote SNAI per questa sesta frazione del Giro. Favorito per la vittoria di tappa è Diego Ulissi, vincitore della frazione di ieri, pagato 4,50. Buona anche la quota di Cadel Evans, corridore della BMC, quotato 8. Si stanno giocando in questi giorni gli internazionali di Roma di tennis, allora è possibile scegliere anche il vincitore finale. Osserviamo le quote di Nadal, favorito sulla terra rossa romana, pagato 2,15. Djokovic invece quotato 3,30. Wawrinka 9, Ferrer 20, Federer 25, mentre Murray 50. Oggi alle 16 per il torneo femminile scende in campo anche la nostra Flavia Pennetta, che però non è favorita contro la Jankovic. La vittoria della rivale dell'azzurra è quotata 1,55, il successo di Flavia Pennetta invece è pagato 2,25. Weekend di grande calcio internazionale quello che si avvicina in Inghilterra, con la finale di FA Cup tra l'Arsenal e l'Hull. Allora andiamo a vedere le quote per questa partita. L'1, la vittoria dell'Arsenal di Wenger è pagata 1,43, l'X è a 4,25, il 2, la vittoria delle Tigre dell'Hull è pagata 7,50. Questa era l'ultima quota di oggi. Noi ci risentiamo domani. Tutti convocati. È tão gostoso quando eu ha. Convocazione sinceramente che non me lo sarei aspettato, soprattutto non tanto per me, perché era già un po' nell'aria che non mi avrebbe convocato, però soprattutto magari ha lasciato gente che hanno fatto 2 anni con lui, come Gilardino, un attaccante che io conosco, che sarei sempre portato dietro, prendendo altri e magari convocando giocatori che erano andati meno e se li ha portati, però decide lui e chiaro, possono essere rimasto sorpreso io come altri, però alla fine ha fatto le sue scelte. Quindi vuol dire che una piccola speranza prima di leggere questa lista ce l'avevi, sì? No, ma era già... No, lo so, però sai che alle volte... No, nessuna speranza. Sapevo benissimo che non mi avrebbe convocato, ha fatto altre convocazioni e... Basta. Speravo, come ho detto, di riuscire a entrare tra i 30 preconvocati, però non mi aspettavo di essere già tra i 23. E questa è stata la gioia in più e... Era una cosa inaspettata comunque. È un'esperienza importantissima, a 21 anni è un sogno, no? E comunque partecipare a un mondiale e vivere un gruppo di campioni per diversi giorni sicuramente mi farà crescere sia come giocatore che come persona. Mi è dispiaciuto perché Alberto, oltre ad essere un grande campione, un bravissimo ragazzo, ha un gruppo, fa benissimo, però il mister Prandelli deve fare delle scelte e purtroppo è stata la scelta. Sinceramente mi fa un po' strano, però è un grande campione e continuerà a dimostrarlo. Un sogno che tutti i ragazzi che hanno per arrivare in nazionale di sposare un mondiale. Ora il mister mi ha inserito in questa lista dei 30 convocati, sono molto contento e ora devo convincere questi giorni che saranno a Coverciano il mister di far parte dei 23 che andranno in Brasile. Un grande saluto da parte mia e penso anche da parte degli altri ragazzi, a gente come Diamanti, Giaccherini, Girardino stesso, anche lo stesso Criscito, ecco, che non sono venuti perché realmente quando sono stati con noi e fino a quando sono stati con noi sono stati insomma, dei giocatori e degli uomini di spessore. Ci siamo ragazzi. Una carrellata di voci nazionali aperta da un trombato, cioè Tony, che parla di un altro trombato, cioè Girardino. Poi abbiamo sentito Perin, abbiamo sentito Insigne e poi la chiosa papale di Gigi Buffon. Piacciono questi nomi oppure no? 800240024, perché il tema è ancora di strettissima attualità al netto delle storie sul codice etico. Mi trovo d'accordo con uno scrittore, in questo caso di messaggi SMS, si chiama Stefano, che sottolinea un aspetto di cui poi vorrei anche parlare, se ne avete voglia. Scrivendo: la Gazzetta presenta a piena pagina il nuovo gioiello Mansour, ennesima trovata mediatica del nuovo corso dirigenziale, si riferisce al Milan naturalmente. La cosa che mi lascia sbigottito è il titolo con cui vengono presentate le doti del giovane: a 350.000 mi piace su Facebook e più di 30.000 follower su Twitter. Non meravigliamoci poi dei vari Cardi, Balotelli, nuova generazione più brava a digitare che a giocherà a pallone. Chi sta parlando? Sta parlando Stefano, Mario. Stefano. E adesso parla Pasquale. Posso? Mario Balotelli. Secondo me non capisci di calcio. Non lo so, adesso lo scopriamo. Pasquale, provincia di Foggia, buongiorno. Pronto, Andrea, fare alla persona che stava parlando con te. Non ho capito. Ho detto, io ho due domande da fare alla persona che sta parlando con te. Sì, Balotelli? No, voglio sapere, il Milan ha 54 punti insieme al Verona in classifica. Nell'ultima giornata di domenica potrebbe gioire per fare la festa, per fare l'Europa League, o dobbiamo aspettare il risultato del Torino contro la Fiorentina? Perché secondo me la Fiorentina non gliela darà vinta al Torino, secondo me. È chiaro che poi l'altra domanda. Dimmi. È se Stedoff se ne va e il Milan potrà avere un allenatore con esperienza, questo voglio sapere. Stiamo parlando dell'ipotesi dell'allenatore che ha non solo esperienza, che ha carisma, che ha capacità, insomma del numero uno o di uno degli allenatori sul podio del mondo, cioè Carlo Ancelotti. Mi sembra un'ipotesi ancora molto difficile, ancora molto bizzarra, però se se ne parla magari sotto qualcosa c'è, non mi sembra qualcosa di campato totalmente per aria. Per quanto riguarda domenica, è chiaro che Torino, che la partita del Torino-Firenze è quella che in linea di massima deciderà il sesto posto e quindi l'accesso ai preliminari di Europa League. Detto questo, siamo proprio sicuri che al Milan interessi così tanto, al di là dei discorsi di facciata, del blasone internazionale, di tutte queste bla bla bla belle cose? Siamo proprio sicuri che al Milan, in un momento in cui fatalmente si tratterà di ricostruire tutto, convenga andare a luglio a giocarsi i preliminari di Europa League? Io non sono così convinto che, al di là delle dichiarazioni di intenti e di facciata, non sono così convinto che in via Aldo Rossi, perché lì si trova la nuova sede rossonera, stapperebbero un milione di bottiglie di champagne in caso di sesto posto e qualificazione alla prossima Europa League. Piero da Torino, buongiorno. Carissimo Genta, carissimo lei, tiro dal vivo. Reciproco, dica. Ma io telefonavo per due cose velocissime. Innanzitutto mi candido come nuovo allenatore della Juve. Brande. Perché sinceramente chi potrà venire dopo Conte, dopo tre anni così, veramente, veramente dura. Soprattutto anche considerando che vari Montella, Mancini, Mihajlovic non mi sembra che siano simpaticissimi proprio i tifosi della Juve. Quindi io volendo mi faccio avanti, se poi va male chi si ricorda di me non faccio le male. E allora, nessuno, allora, no? Allora, visto che vuol fare l'allenatore della Juventus, allora mi dica qual è il suo quale sarebbe il suo piano, il suo progetto di squadra. No, bisogna essere però realisti, battute a parte. Io penso che la Juve in questo momento non abbia così tanti soldi da investire per rifare la squadra come vorrebbe Conte, e quindi bisognerebbe accontentarsi di pochi innesti e andare avanti in questa maniera, e sperando che di andare avanti il più possibile in Champions League, e allora a quel punto magari acquistare anche importanza, perché è una vettina importante. Quindi lei non è un candidato ideale, perché a differenza di Conte non chiede la luna, non chiede tutti sti quattrini, non chiede tutti sti giocatori. Che poi il discorso di Conte, mi pare di aver capito, è un po' diverso, cioè lui vorrebbe riprendere, riportare a casa i vari giocatori, ovviamente quelli di livello, da Immobile a, che so, Zaza, Gabbiadini, piuttosto che altri che ha in giro per l'Italia e per il pianeta. Vorrebbe riportarli a casa e ripartire con un nuovo progetto, che sostanzialmente rifondare la squadra. Sì, sì. Mentre la Juventus dice: no, vabbè, i quattrini sono pochi, cerchiamo di arricchire questa rosa, che però non verrà smantellata. Certo. E poi, seconda cosa velocissima, volevo anche scrivere all'UEFA, sì, di lasciare un posto libero a una squadra italiana. Lasciando vagante il posto del Benfica, tanto è inutile che ti scrivi alle coppe, che sì, tanto perde sempre. Quindi a questo punto gli dato un posto alla squadra italiana nostra, e così lo dobbiamo fare. Sì, sì, sì, bravo, firmo anch'io, Piero. No, ma poveretti, ma quello che dico è che 8 una volta bene, e 2 ci sta, e 3 anche, e 4 facciamo che pure, e 5 al massimo, ma 8 volte, 8 no, volte neanche se fai apposta, no? 8 volte io da tifoso juventino ne abbiamo perse di finali, me ne intendo, però 8 sì, sono davvero tante. Sì, 8 sono davvero tante, e come ho detto prima in apertura, insomma, stiamo parlando di allenatori, ma se c'è un allenatore in questo momento, purtroppo è passato a miglior vita, Bela Gutmann, se c'è un allenatore che tutti prenderebbero è lui, cioè 8 finali consecutive ha vinto, o meglio 8 controfinali tirandolo in saccoccia al Benfica. Mancano solo 48 anni alla scadenza dei 100 della maledizione, dunque forza ragazzi del Benfica, che la vita è lunga. Senta Piero, ma mi consenta ancora una cosa, io la intervisto da nuovo allenatore della Juventus, o da candidato alla panchina della Juventus, certo, ma questa coppa, secondo me per la Juventus e per Conte era importantissima, non è stata affrontata, giocata, vissuta nel miglior modo possibile. Quelle due partite con il Benfica non sono state all'altezza della Juventus. No, secondo me l'errore che ha fatto Conte, al di là poi del 3-5-2, dei numeri, che a me tutti questi numeri non fanno impazzire, perché poi come i giocatori interpretano il gioco. Esatto. L'errore secondo me della partita dell'andata è che sull'1-1 bisognava magari coprirsi dietro, certo, magari giocando a 4. Il Benfica era anche andato un attimo in palla, l'ho visto in crisi, quindi magari con un paio di giocate di Tevez si poteva fare, certo, qualcosa, magari non dico il 2-1, ma comunque l'1-1 era da difendere e da portare a casa. Sicuramente, sicuramente. E lì secondo me è quello che forse è il piccolo errore che fa anche Conte, che a prescindere dal risultato difficilmente cambia in corsa la formazione, ecco. Mm-hmm. È vero, bravissimo, ma io sa che sono sempre più convinto della sua candidatura al soglio bianconero, perché secondo me sono, insomma, almeno dal mio punto di vista, totalmente condivisibile quanto lei ha detto. Aggiungo anche un approccio non perfetto a questa Coppa Europea. Lasciamo stare la Champions League, lì l'approccio è stato totalmente fallimentare, ma a questa Coppa l'approccio non è stato corretto, perché è evidente che la qualificazione è stata persa in Portogallo. Però è figlia di un approccio non turnover, motivazioni, eccetera, un approccio non perfetto a questa competizione. Poi sono d'accordo anche sul fatto che, continuiamo a dire, a Conte fa il 3-5-2, è un modulo che non è di moda, in Europa con quel modulo non si vince. Però il nuovo allenatore della Juventus, cioè Piero da Torino, ha detto una cosa saggissima, poi dipende da come lo interpreti, perché 3-5-2 va bene, ma se hai un centrocampista come Vidal che ti segna 20 gol, Poi possiamo parlare di 3-5-2, di 3-4-3, di quello che vogliamo. Dipende da come entri in quello spartito, che poi è sempre un grosso modo un canovaccio, che andrebbe modificato, e Conte non è bravissimo in questo, non è particolarmente veloce neanche negli aggiustamenti in corsa. Piero, la ringrazio, ci sentiamo allora in conferenza stampa per la sua presentazione come allenatore della Juve. Adesso chiamiamo Marotta, organizziamo tutto. Grazie Piero. Ciro, Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno. Mi dica. Io, se Conte deve rimanere in questa squadra, andrei via, se fosse in Conte. Se deve rimanere in questa squadra qua. Perché non ci saranno più stimoli, dopo 3 anni è meglio andare via. Sì. Però con pochi innesti, secondo me, innesti giusti, tipo un Quadrato o Mascherano in difesa, terrè tutto il centrocampo, e poi 3 a casa, Immobile e Cerci, sarebbe una buona, un'ottima squadra. Sì. Allenata da chi? Allenata da chi? Sempre Conte. Sempre da Conte. Si farebbe un passettino in avanti, molto in avanti. Però in difesa, specialmente Bonucci e Chiellini, non vanno bene. A livello internazionale, sono troppo scarsi. No, secondo me invece vanno benissimo, Ciro. Secondo me, in questo momento, insomma, non possiamo. Guarda, se c'è un reparto che si presta a poche discussioni, alla difesa, certamente lei mi può dire, non sono eterni, in particolare Barzagli, e questo è vero. La Juventus ha bisogno di rinforzarsi dietro, ha bisogno di nuovi interpreti. Ogbon in questa prima stagione non è andato benissimo, quindi certamente ha bisogno di qualcosa là dietro, però anche in prospettiva nazionale, ecco, allora. In prospettiva nazionale, secondo me la scelta cardinale, la scelta più importante, Prandelli dovrà farla sugli attaccanti, perché in torneo come mondiale è fondamentale indovinare gli attaccanti. La storia lo ha detto, lo ha insegnato, quindi quella sarà la scelta decisiva. Sul fronte difensivo, la difesa nazionale è la cosa che onestamente preoccupa di meno, perché è una squadra, è una difesa rodatissima, una difesa in cui i giocatori, gli interpreti si conoscono a memoria, e questo è molto importante. Io sono favorevole ai blocchi all'interno di una nazionale. Abbiamo questo blocco difensivo che è il migliore, la migliore espressione del nostro campionato, la miglior difesa del nostro campionato senza discussioni, e quindi lì sarei tranquillo. Stiamo attenti a come, o meglio, Prandelli stia attento a come sceglierà e mixerà gli attaccanti. A proposito di attaccanti, ve ne dico una. Eto'o, non sono vecchio, ho 33 anni, e non è perché qualche idiota, José Mourinho, ha detto che ero vecchio, dovete credergli. Qualcuno crede che mi ritirerò negli Stati Uniti o in Medio Oriente, dice Toma, ho ritrovato la gioia della Champions e continuerò a giocare la Champions. Dove? Non ve lo dirò, ma continuerò a farlo, perché fisicamente e mentalmente sto alla grande. Detto questo, Mourinho è un idiota, dice Eto'o, e ho i miei dubbi che Eto'o proseguirà la sua avventura con la maglia dei Blues. Un giorno mi piacerebbe incontrarlo e fargli qualche domanda, posso? Mario? Chi sta parlando? Noi, secondo te, andiamo in campo per vincere o per perdere? Siccome quando vince il Milan è bravo Mario, e quando perde il Milan è colpa di Mario, io l'accetto, non c'è problema, però le tue critiche non mi servono, me le faccio da solo, grazie. Secondo te, per vincere, dobbiamo fare gol o no? Guarda, ho cominciato questa stagione non molto bene, vengo qua per rifarmi e fare bene. E per fare gol dobbiamo tirare in porta o no? Mi sono sempre impegnato e sto migliorando tanto. Per tirare in porta dobbiamo stare lontano dalla porta, no, vicino alla porta. E allora perché tu giochi sempre anche nella nostra metà campo? Quando la palla non arriva in area devi andarla a prendere fuori dall'area. Speriamo che impari. Secondo me non capisci di calcio. Però è vero, è vero. Meraviglioso dialogo, tutto vero, tra Berlusconi e Mario Balotelli. È vero come quanto avevamo fatto sentire prima, il battibecco, il bisticcio tra Moggi e Pippo Baudo. Dov'è l'errore? 800 24 00 24. C'è poi un ex juventino che adesso è affaccendato in altre importanti faccende, cioè quel signore che consegna la, che ieri sera ha consegnato la vecchia Coppa UEFA agli spagnoli, si chiama Michel Platini, e che non riesce a perdere in questo meraviglioso il gusto della battuta e dell'ironia. Si è augurato durante il suo mandato di poter premiare la Juventus un giorno, pensa che ci vorrà molto tempo? Allora deve rifare qualche mandato in più, può darsi. L'ho detto a Andrea, lui mi vuole all'UEFA, dunque non vuole vincere le cose. Grazie, fatemi restare che qui è lunga, prima di consegnare una coppa a voi ne passerà ancora, ho bisogno di altri mandati, non posso mica andare da un'altra parte, dice Platini. Lo sapevate che il Napoli è la terza squadra al mondo, il terzo club al mondo come numero di preconvocati nelle varie nazionali, 13. Questa classifica è guidata dal Bayern di Monaco, 17 preconvocati in tutto. 15 c'è il Manchester United che ne ha 14 e con 13 preconvocati troviamo Barcellona, Real Madrid e Napoli. Antonio da Torino, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io lo devo dire, per quanto riguarda la formazione nazionale, io metterei la difesa della Juve, centrocampo della Juve, l'attacco del Toro, Immobile, Cercio. C'è un problema. Quale? Vidal non è leggibile. Non c'è tutta il centrocampo della Juve. No, già Marchisio, Pirlo, già a mezzo centrocampo, e poi scegliere il migliore che non sia Marchisio. Pirlo è andato via Ramire. Sì, dico Marchisio, Pirlo centrocampo, poi non so, qualcun altro forte ci sarà. Sì, poi però uno a caso si trova, magari De Rossi, anche se non gioca nella Juve, uno forte si trova, però deve essere Cerci, Immobile, perché si conoscono troppo bene. Sì. Mettere Balotelli, ok, abbiamo già visto che... Ma ieri, guardi, le svelo un fuori onda, ieri ne discutevo animatamente, che è un argomento che appassiona tutti noi, con mio amico Giuseppe Cruciani, e lui mi diceva, sì, Immobile c'è, ma andiamo ai mondiali con l'attacco del Torino? Il miglior prodotto italiano che c'è stato. È l'attacco più prolifico nel campionato italiano. Quindi basta quello? Sul fatto che quelli hanno fatto scintille, mirabilie nel campionato italiano, qui è un mondiale, un po' diverso. Però ha fatto scintille e mirabilie con un centrocampo e la difesa del Toro, che non è la più titolata al mondo. Secondo me con la difesa del centrocampo della Juve i due ragazzi possono fare grandi cose, perché le giocano a memoria. Sì. Oggi i telefoni mi fanno impazzire, per la gioia di molti ascoltatori sono vicino a dare le dimissioni, se non mi aggiustano i telefoni, non regalano un telefono nuovo a Pardo, tra poco appenderò la cuffia al chiodo per la gioia dei più. Fabrizio da Cuneo, buongiorno. Oh, buongiorno, ciao. Ho un sacco di cose da dire, adesso non so più cosa dire perché arrivo dopo gli Juventini. Io oltretutto sono Juventino, ma vabbè, non importa. No, Fabrizio, no. Se vuoi, facciamo così: se vuoi riordinare le idee e hai un minuto di pazienza, ho la borsa in linea, e dopo riordini le idee e dici quello che vuoi. No, come vuoi, no, se hai un attimo. Dimmi, vai. No, allora volevo parlare di due cosine. Il primo codice etico, che fortunatamente non hanno fatto un macello di questa cosa di Chiellini, ma per esempio, perché io sono juventino, ma se uno juventino combina un casino ci mancherebbe. Il problema è che parliamo di codice etico, Chiellini, non Chiellini, quando in campo ogni domenica ne fanno di cotta e di cruda. Allora o lo facciamo tutti il codice etico, cioè si insultano, si mandano a quel paese, mandano a cagare tutti, figlio di stronzo, si danno gomitate, si cadono in terra, si toccano la testa, poi dal replesso perché perdono sangue, se sono stati colpiti a un ginocchio o una caviglia, o neanche sono stati colpiti. Quindi se dobbiamo andare solo a vedere il codice etico, nessuno va in nazionale. Perfetto. Perché siamo un circo, no? I nostri calciatori sono un circo. Ma sai, un circo è sport con le sue distorsioni, però è sport. In questo. Infatti all'estero non ci fissano un fallo e non abbiamo fatto nulla da anni, continuiamo a buttarci come fossimo in piscina, ma all'estero non ci cartano, ma al di là di questo. E poi niente, dicevo, abbiamo una nazionale che, voglio dire, io mastico calcio da 45 anni, ho giocato anche a calcio, anche in serie, però voglio dire, abbiamo una nazionale che, ragazzi, e spero che passiamo il turno, ma non credo che andremo a casa dopo pochi giorni, secondo me, perché abbiamo veramente, siamo veramente, ma non al di là delle scelte, perché le scelte erano quelle, i giocatori sono questi. Il problema è che le punte bravine non sono italiane, quelle che segnano non sono italiane, se non Immobile, come si sa, giocano solo per lui. Quindi Immobile, sì, questo è vero, Immobile giocano solo per lui, però quest'anno ha giocato benissimo. Giuseppe Rossi ha avuto problemi, però quest'anno l'ha messa dentro. Balotelli, secondo me, resta Balotelli, quindi il giocatore italiano di maggior talento, ma questa è un'opinione mia. Io non la vedo così pessima la nazionale italiana, vice campione d'Europa, non dimentichiamo neanche questo dettaglio. Convocati. Vediamo il traguardo con l'arrivo Caden Evans, però è partito anche un uomo della Lampre, abbiamo visto dall'inquadratura Cunego. Sembra Ulissi. Donna Ulissi. Ulissi. È Ulissi. Di Ulissi. Diego Ulissi era il favorito principale e Diego Ulissi ha saputo cogliere l'attimo. Esatto, cogliere l'attimo Diego Ulissi. Diciamo che partire da favoriti è sempre difficile. Oggi mi aspettavano tutti, mi sono fatto trovare pronto, quindi in questo momento sto godendo. Nel finale ci ho fatta a prendere la posizione giusta. Niamek mi ha riportato sotto a Moreno e Rodriguez, poi ha lanciato la volata ai 150 dall'arrivo e penso di aver vinto bene. E con lui abbiamo goduto finalmente anche tutti noi. Ci voleva un miracolo, una magia o un nome mitologico, Ulissi, per rompere l'incantesimo azzurro al giro rosa. Finalmente ne abbiamo vinta una. Pier Augusto Stasi, ciao! Ciao Carlo, buon pomeriggio! Abbiamo goduto tutti insieme con Diego Ulissi, anche il CT Cassani che ha speso paragone con Argentina. Insomma, avevamo un disperato bisogno di una vittoria quantomeno parziale, quantomeno di tappa. Sì, assolutamente. Per fare il paragone di Cumoreno Argentini, mi permetterei di dire che ha vinto anche la Beppe Saroni, visto che è il suo team manager, quindi sarebbe giusto ricordare anche un altro grande finisher come è stato Beppe Saroni, che ha vinto un mondiale con una nel 1982, con una progressione che ci ricordiamo ancora tutti. E ieri Diego è stato scaltro, intelligente, pronto, coperto fino al punto giusto, bello accucciato alle spalle di Caden Evans, e poi con grande potenza unita anche a grande agilità ha vinto per distacco sostanzialmente, perché ha dato tre biciclette a tutto, ha vinto proprio bene girandosi e godendo a pieni polmoni, come lui ha dichiarato subito dopo il traguardo. Una bella vittoria che serve a lui per fare quel passettino in avanti, per crescere. Ricordiamo che compierà 25 anni a luglio, quindi è ancora molto giovane. Questa mattina, parlando con Orlando Maini, che è il direttore sportivo della Lampre Merida, diceva: lasciamolo crescere ancora un paio di anni, questo sarà un atleta, un vero cacciatore di classi, sì, e si spera di tappe. È il più vecchio della nuova generazione. Abbiamo 4-5 corridori di buonissimo livello, bisogna avere pazienza. D'altra parte questo è vero, non lo possiamo dire, perché noi italiani siamo bravissimi a farci proprio del male, a essere dei da pazzi, però se noi andiamo a vedere quelli che vincono costantemente, guardiamo anche alle spalle di Diego Ulissi chi c'è, Caden Evans, che ne ha 37, Bianca Cancellara non è un ragazzino, Tombone non è un ragazzino. No, diciamo che la generazione dei grandi cacciatori di classiche, di corse in linea, ormai in un'età molto avanzata, non sono più freschissimi, e dunque adesso c'è spazio per una nouvelle vague di questi corridori, e Diego Ulissi può diventarlo. Ma il tema del giorno oggi qual è? Di che si parla di oggi? Ma oggi si parla intanto della tappa di oggi, che è la più lunga del Giro d'Italia, e sono presente sia a 260 km perché sì. C'è stato anche una variazione sul tema per una frana e quindi hanno allungato il percorso di 8 km di trasferimento, quindi una vera tappa da Liegi Bastogne-Liegi. Al momento c'è una fuga di 4 che sta procedendo con 6 minuti di vantaggio sulla maglia rosa, sul gruppo maglia rosa. Ci sono su 4 corridori 3 sono italiani: Marco Bandiera, Edoardo Zardini, Andrea Fedi e un colombiano, Torres del Team Colombia. Sì. Questo per la cronaca, diciamo, spicciola. E si spera, certo, ormai l'appetito viene mangiando. Noi questa mattina abbiamo detto a Ulissi: dai, fai facci godere un'altra volta, dai. Esatto. C'è uno zampellotto finale che si addice, certo, bisogna vedere se hanno voglia le grandi squadre, soprattutto quelle della maglia rosa, di andare a riprendere questi 4 battistrada. Il punto di domanda c'è, anche perché domani la tappa è una tappa, diciamo, per velocisti e poi ci aspettano 2 belle tappe di montagna. Quindi oggi potrebbero così magari lasciare andare la fuga. Sarebbe un peccato, anche perché una vittoria è un lampo isolato, ma se già ne metti in fila 2 comincia a diventare qualcosa di più importante, qualcosa che ti porta anche maggiore attenzione intorno a questo Giro d'Italia. Tanta voglia di Giro. Diego è pronto. Diego è pronto, stamattina diceva che lui oggi aveva 2 preoccupazioni, non sto dicendo sciocchezze, è così. La preoccupazione era la pioggia e soprattutto le squadre della maglia rosa, la squadra della maglia rosa che non abbia tanto voglia di tenere compatto il gruppo. E quindi lui è pronto. E poi è molto preoccupato per Antonio Conte. Lui è un malato di Juventus ed è preoccupatissimo. Che vada via Conte. Esatto, lui oggi cantava cori su Conte, è assolutamente andato, era in condizioni pietose. Però infatti guarda, ne raccoglierò un suo pensiero e se vuoi lo manderai a tutti i convocati, sì, assolutamente. Dove Diego si esibirà anche in un parere tecnico da autentico appassionato di calcio. Io lo voglio da ultra, non lo voglio da appassionato. Lui è proprio, allora, lui è un drugo, Allora rimaniamo d'accordo così, lo fai e me lo mandi, promesso. Voglio lo sentire cosa dice Ulissi su Antonio Conte. E tra l'altro, per farla arrabbiare, digli anche che va via. Dica anche che mi hanno detto che va via. Digli così. No, lui guarda che mi hanno detto che va via. Mancini. Lui non vuole Mancini. Mancini, secondo me, sarebbe il profilo perfetto per la Juventus. Io non lo so. Mi ha confidato che sarebbe più contento per Massimiliano Allegri, però credo che sia una questione anche di empatia regionale. Livornese, tutte e due, così non vale. Così non vale. Grazie, io riporto. Mi hanno detto che Conte va via, sicuro. Vai così, poi senti cosa rispondi. Grazie. Si ammazza. Grazie per Augusto Stagi dal Giro d'Italia. Allora, in attesa di dare fastidio a Diego Ulissi, che ieri ha vinto e che spero oggi possa farlo di nuovo, Carlo Laudisa, Gazzetta dello Sport e principe del calciomercato. Ciao Carlo. Oggi, ciao a tutti. Oggi hai smontato e rimontato tutte le panchine della Serie A. Ma, un po'. Ma a proposito, c'era Prandelli lì da voi in Gazzetta? Non so se è una notizia di dominio pubblico. Ho sentito dire, sì. Ah, è probabile. Non confermo e non smentisco. Ah, mi sembri mi sembri Raiola quando fai così. No. Allora, dimmi questa cosa. Io voglio sapere cosa c'è di vero, realistico, possibile, inventato nella storia di Ancelotti, del ritorno di Ancelotti al Milan. Beh, mi cogli in fallo perché è una notizia che io non ho riportato. Non lo so commentare. Allora, 7 milioni netti all'anno. Per altri 2 anni. Quindi la risposta la lascio dare a te. No, ma io la so già, appunto, ed è la mia stessa, con tutto il rispetto per chi ha creduto in questo tipo di sogno rossonero. Io penso che Adriano Galliani abbia il senso pratico per capire che Carlo Ancelotti rimane un suo amico innamorato del Milan, perché evidentemente Carlo Ancelotti si sente a questo punto milanista, ma non credo che nella sua carriera ci possa essere un ritorno al Milan. In questo Milan, certamente, in questo Milan più che mai. Sarebbe un po' come prendere una Ferrari e poi non avere i soldi e per mettere la benzina. E comunque, da appassionato del calcio italiano e da simpatizzante per le qualità di questo grande allenatore, io mi auguro, incrociando le dita, che porti a casa la decima, che sarebbe e allora di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che adesso mando un attimo il traffico e poi però ti giro una mia impressione su Conte, perché io sono convinto che Conte andrà via dalla Juventus e che la situazione di impasse che si è creata sia legata anche o forse soprattutto al fatto che la Juventus si troverebbe in questo momento con la panchina vuota e non può permetterselo. Tutti convocati. Ci siamo ragazzi. Allora, poi facciamo parlare anche Giovanni da Pescara, ma intanto Carlo Laudisa, ripeto, Conte secondo me va via non si sa dove. La Juventus non vuole farsi trovare in braghe di tela. In questo momento non ci sono le condizioni per annunciare un divorzio che è già scritto. Mi sbaglio di molto? Ma io, partendo dai tuoi stessi indizi, sono arrivato alla soluzione contraria. Chi sbaglierà fra me e te? Che la mia impressione sia quella giusta. Io parto da un altro presupposto. Proprio per quello che hai detto tu, innanzitutto Conte sa dove va? Secondo me no. Lui è partito in questa crociata, la seconda crociata, no? Chiamiamola così, della metafora bianconera, visto che l'estate scorsa aveva compiuto più o meno gli stessi atti. Con un aggravante, il fatto della delusione europea, della doppia delusione europea, che sicuramente lo ha turbato, che sicuramente ha messo a nudo quelle che sono poi le ambizioni della Juve per la prossima stagione. Quindi lui, avendo un solo anno di contratto all'orizzonte, vedendo un ambiente in parte anche contro di lui, perché i tifosi bianconeri non sono più compatti come lo erano l'anno scorso a suo favore, lui chiede garanzie tecniche, sì, alla società. È un salvagente mediatico, sì. Queste sono le sue condizioni. Io credo che in questi giorni il lavoro diplomatico che Marotta sta facendo, e anche le parole odierne, credo che ne abbiate già parlato, vanno in questa direzione, sì. Fanno capire che la Juve, certamente il presidente Agnelli non è sereno, perché non si aspettava tutta questo battage. È altrettanto vero che i sorrisi anche odierni e quelli di ieri sera in tribuna testimoniano che poi il filo non si è rotto, sì. Quindi l'aspetto umano è ancora saldo, considerando che lì c'è un alto tasso di colori bianconeri, no? Anche certo. nella forma mentis dell'allenatore. Quindi in questo momento c'è una situazione precaria, non c'è una rottura e poi c'è un'utilità reciproca. Conte non ha una soluzione chiara all'orizzonte, un'alternativa, perché il Monaco prenderà Jardel, l'attuale allenatore dello Sporting Lisbona, dopo che Jesus ha dovuto dir no perché il Benfica non l'ha liberato. Quindi la spista monegasca non c'è, lo United prende Van Gaal, ci sono situazioni aleatorie che evidentemente non poi sono, c'è anche una coerenza sua. Lui quando si è sfogato non ha detto io, ha fatto capire di non aver nulla in mano, ed era vero, mi sembra così, leale, cioè, in questo. Basta fare i conti, non è che... Io ho fatto i conti io, però anche senza sapere questo, comunque Conte da questo punto di vista è assolutamente leale. E prendiamo l'altra faccia della medaglia. È vero, lo abbiamo scritto da un paio di giorni, che Andrea Agnelli sta valutando la candidatura di Vincenzo Montella, che però ha questa clausola che scade a giorni. E Della Valle certamente, appena scadrà quella finestra, la chiuderanno a tripla mandata. Per cui o Agnelli rompe clamorosamente lunedì con Conte e già lunedì sera presenta Montella, scenario per me inverosimile, poco realistico, appunto. Oppure ci sarà un intelligente compromesso tra i due, per cui, e su questo io non ho la bacchetta magica per dirvi come andrà a finire. In un articolo di ieri ho spiegato tecnicamente come ci sia un parallelo fra la vicenda di Conte e quella di Allegri un anno fa. Un anno fa, quando Allegri aveva parlato con la Roma, si erano state dette un po' di barzellette in giro sul fatto che Allegri chiedesse soldi al Milan per andare via e buona uscita. La realtà era un'altra, che per l'ordinamento sportivo un tesserato, un allenatore in particolare, non può chiedere la risoluzione senza l'avallo del club. Per cui in teoria Agnelli può dire al signor Conte, se arrivassero al punto che è di rottura. Di imporgli: no, io non ti lascio andare via. Certo, è sotto contratto, quindi dovrebbe, vorrebbe un escape, qualcuno dovrebbe dare dei soldi, come per un giocatore. Quindi mi sembra che il discorso sia da quel punto di vista. No, non è come per un giocatore, è differente, ripeto, a meno che clamorosamente Conte non decida di adire i regali, cioè di andare all'amministratore ordinaria. Ma qui stiamo parlando di uno scenario che non è. Non ci credo. Era solo una possibilità che si potrebbe presentare. Quindi un po' tu dici un po' controvoglia da entrambe le parti, però questo rapporto è destinato ad andare avanti, lo scopriamo. Andare avanti almeno per un anno fino alla scadenza del contratto. Ipotesi A, precaria, decidono di si spacca tutto e arriva Montella lunedì. Ipotesi B, non si spacca nulla, si incontrano, perché se fra lunedì e martedì non arriva Montella e poi non arriva più, perché poi la finestra si chiude. Quella finestra si chiude e quindi è chiaro che la deadline sarà i primi giorni della prossima settimana. Carlo, ti ringrazio. Grazie a voi. Ciao, un abbraccio. Ciao a Carlo Laudisa. Ciao. Teu estilo é brasileiro, irmão. Você tem que estar aqui assistindo os jogos da Copa. Vem, Ibra! Vai ser demais, funk, carnaval. Ibra, vem pra Copa, estamos esperando você aqui. Vem, Ibra! Come on, Ibrahimovic, we need you in Brazil now. Come on! Vem pra Copa, Ibra, vem pra cá. Vem pra cá, com o Guardiola não sabe nada de bola. Oi, Ibra. Infelizmente a Suécia não veio pra Copa, né? Mas vem pro Brasil. Que bom, Ibra. Porra, Ibra. Tinha que ser mané e vem pra Copa, cara. Ibra, vem pra Copa, você também. Vem, Ibra. Vem assistir a Copa do Mundo aqui no Brasil. O negócio é o seguinte, meu querido. Deixa de palhaçada e vem. Vem, Ibra. Vem pra Copa. Allora, questo è meraviglioso, una clip in cui ci sono un sacco di giocatori brasiliani che invitano Ibrahimovic, che aveva detto: senza di me non sarà mondiale. Allora tutti quanti, Dani Alves, Ronaldo, Vampeta, Rai, Denilson e molti altri, dicono: Ibra, vieni, ti aspettiamo, non puoi stare a casa. Il migliore di oggi, Piero da Torino, buongiorno. Innanzitutto mi candido come nuovo allenatore della Juve. Grande. Perché? Perché sinceramente chi potrà venire dopo Conte, dopo 3 anni così, è veramente, veramente dura. Soprattutto anche considerando che vari Montella, Mancini, Mihajlovic non mi sembra che siano simpaticissimi proprio i tifosi della Juve. Quindi io volendo mi faccio avanti, se poi va male, chi si ricorda di me non faccio del male. E allora, nessuno, allora, no? Allora, visto che vuol fare l'allenatore della Juventus, allora mi dica qual è il suo, quale sarebbe il suo piano, il suo progetto di squadra? No, bisogna essere però realisti, battute a parte, io penso che la Juve in questo momento non abbia così tanti soldi da investire per rifare la squadra come vorrebbe Conte, e quindi bisognerebbe accontentarsi di pochi innesti e andare avanti in questa maniera, sperando che di andare avanti il più possibile in Champions League, e allora a quel punto magari acquistare anche importanza, perché è una vetrina importante. Allora, abbiamo avuto in esclusiva il nuovo allenatore della Juventus, Piero da Torino, e poi poi diteci che non facciamo gli scoop. Balotelli e... Ciao ragazzi, ci sentiamo domani. Franco Piantelli, autore di questo programma, Claudio Schettoni in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Domani, dopo GR delle 2, tutti convocati.